5F. Ascolta e trasforma. L'idea è buona. Le idee sono buone. L'intervista è interessante. Le interviste sono interessanti. L'occasione è buona. Le occasioni sono buone. L'operazione è semplice. Le operazioni sono semplici. L'indagine è lunga. Le indagini sono lunghe. L'esperienza è necessaria. Le esperienze sono necessarie. L'aula è piccola. Le aule sono piccole. L'assemblea è chiusa. Le assemblee sono chiuse.